Adesso parliamo con un noto psichiatra e psicoterapeuta, il professor Massimo Fagioli, a cui chiediamo di approfondire questo discorso sul tempo di lavoro, il tempo di vita, cosa c'è veramente dal punto di vista culturale e al limite anche psichiatrico dietro questa ansia da prestazione, questa ansia competitiva che si legge dietro la crociata contro il fannullone. Professore, lei da psichiatra come la vede? Sì, forse non è propriamente un discorso psichiatrico, ma insomma sto proprio lavorando su questa cosa qui da vario tempo, forse da decenni, ma particolarmente negli ultimi anni. Parlo di questo dibattito che c'è a sinistra e quello in particolare che ho fatto insieme ad altri con Bertinotti, il discorso sulla classe operaia. Il discorso sulla classe operaia, per cui proponevamo di pensare che non era più la cosa di 200 anni fa, dello sfruttamento della forza lavoro della classe operaia. Infatti, adesso queste cose che stanno succedendo, e in particolare questa destra che si mette, diciamo pure, a sfruttare la forza lavoro, non dell'operaio, come se l'operaio ormai fosse una cosa conclusa, deve fare quelle sue ore di lavoro, fa le sue ore di lavoro, l'unica cosa che può pretendere è l'aumento di stipendio, di raggiungere un livello di vita meno sofferente, meno disagiato, ma quello da attaccare, la destra, è la forza lavoro intellettuale. La forza lavoro intellettuale, cioè questi dirigenti che vengono assunti a 25 anni perché sono brillanti, bravi, sono i primi della classe, no? Dell'università, e poi fanno fare una magnifica carriera, arrivano dagli stipendi di 1 milione all'anno e poi 45 anni, 50 anni li mettono via. Il limone è spremuto, completamente spremuto. E questo adesso Brunetta lo sta estendendo a tutti, anche gli impiegati, eccetera. Quello che conta è la meritocrazia, quello che conta è essere bravi, eccetera, distinguere, facendo tra buoni e cattivi. I buoni e bravi verranno premiati e lo diranno. Uno stipendio in più. Lo stipendio in più non è più una questione sindacale. Distruggono completamente appunto il movimento della classe operaia, tutto quello che c'è stato. E questo perché giocano su questa faccenda che l'identità diventa l'identità professionale. Questo, danno l'offa a questa identità che diventa nel giro di pochi anni, fanno una magnifica carriera in una grande industria, guadagnano un sacco di soldi e poi vengono liquidati, perché poi ho altre forze giovani che a 45 anni, 50 anni, dopo aver speso la vita per fare carriera, la realtà umana è andata a carte 48, ci so dire. Ecco, queste identità professionali non corrispondono sempre. L'identità professionale è soltanto, ecco, non dico parole grosse, nella libera creatività che si forma. Quindi dall'artista all'artigiano. Ma quando c'è questa cosa dell'industrializzazione, eccetera, per cui bisogna che ci siano persone efficienti che fanno le cose stabilite dalla legge del mercato, della produzione, del perfezionismo, della tecnica, l'intelligenza umana va tutta sulla tecnica per perfezionare le comunicazioni, eccetera, eccetera. Il livello, insomma, qui basta ricordarsi di Kubrick, dove andiamo a finire. Una volta si rappresentava con, diciamo, i tempi moderni di Chaplin e si parlava È di esattissimo, alieni. quella degli anni 30, sono i tempi moderni, ultimamente c'è stato Kubrick che ha fatto 2001 Odissea nello spazio. Si parlava di alienazione a quei tempi. Appunto, per cui ormai l'uomo non decide più, deve ribellarsi a quello che fa il computer, eccetera, eccetera. Ma si può fare un elogio dell'ozio senza apparire retrogradi? Ma più che dell'ozio, della realizzazione della propria identità umana. Insomma, a un certo momento non lasciarsi fregare che il telefono di casa ormai è una cosa superata, eccetera, quindi bisogna comprare un telefonino e magari meglio tre telefonini che fanno le foto, eccetera, eccetera, che comunicano col il pensiero, insomma, tutte queste cose qua che accendono i fornelli, anche se stai al cinema, e così via dicendo, fermare un po' questa corsa a questa produzione infinita che non è più soddisfazione dei bisogni. Quelli che possono essere esigenze dell'ozio, è chiamato giustamente, si sente da ricercare legge, insomma, quando si riuscirà, lo so, è un'utopia. È un'utopia generale che potrebbe essere accusato di astrattismo, ma quando l'operaio spende 100 euro per comprare i poeti siciliani del 1200 con Federico II, questo bisognerebbe arrivare a dire, fu detto anche in questi dibattiti che abbiamo fatto con Bettinotti, eccetera, in modo che realizzi che quello cui si deve ribellare è oltre, andiamo oltre alla sofferenza fisica, che in qualche modo adesso la concedono la cura e un certo benessere fisico. Quello che è l'annullamento dell'identità, perché uno deve realizzare la propria identità umana, non si tratta soltanto, eccetera, quindi ridurre le ore di lavoro, eccetera, e così via dicendo. Quindi certo l'ozio, ma insomma la parola può essere cattiva, perché l'ozio, certo, ma inteso come un contratto con le industrie, per cui io 4 giorni alla settimana te li lavoro, però gli altri 3 giorni tu mi lasci in pace, mi lasci libero, eccetera, bisogna fare un contratto con questa gente qui, con questa cosa qui. Però poi succede che la gente nel tempo libero non se lo gode affatto, le vacanze le passa, esatto, a guardare il palmare. Un'obiezione alla riduzione dell'orario di lavoro da 35 a 32 ore è proprio questo. Poi dopo l'operaio fa un doppio lavoro. Fa un doppio lavoro, cioè non lo utilizza per la propria soddisfazione personale, ma per guadagnare di più, e questo porta alla diminuzione dei posti di lavoro, ovviamente, e quindi aumenta la disoccupazione. Quindi anche in Francia, mi pare, stanno condannando le 35 ore che avevano ottenuto per riportarle a 40, e per questa ragione, sì, perché dietro c'è una mancata realizzazione dell'umano, per cui l'uomo non cerca l'identità umana, nessuno nemmeno gliela propone nella cultura, eccetera, che c'è da cercare un'identità umana. Non è quella bella fatta e costruita nel paradiso terrestre da Padre Eterno, no, no. Uno se la deve costruire nelle relazioni interumane, nella cultura, negli studi, nei rapporti, eccetera, eccetera. E invece questo non si fa perché nessuno glielo propone. Nessuno propone che il problema, quindi forse anche questa è una bella accusa alla sinistra, quando la Kollontai lo diceva nel 23, che bisogna che modificano le realtà psichiche degli esseri umani nell'ambito, nel contesto della, lui, lei diceva, realizzazione comunista, perché era una seguace di Lenin, eccetera, eccetera. E lo so, il problema è questo, e io direi che bisogna attaccare la cultura. È la cultura che invece non fa pensare nemmeno a questa che io chiamo esigenza, e non più che ci sia un'esigenza e non più la soddisfazione. Con la teoria della soddisfazione dei bisogni, appunto, uno allora appena c'ha 100 euro compra il telefonino nuovo, non compra i poeti siciliani, no, è l'origine della lingua italiana, no. Compra il telefonino nuovo. Quindi non è un'esagerazione, secondo lei, vedere dietro questa crociata efficientista dai toni un po' della caccia alle streghe? C'è Bertinotti, l'ha detto bene, il fascismo leggero l'ha chiamato, cioè condizionare proprio la mentalità, eccetera, per cui tu ti fai un'identità se sei bravo a scuola, se sei bravo al lavoro, e io magari ti do 1.000 euro in più, certo. Però no, tu non devi pensare a una tua realizzazione, di trovare la ragazza che sta per te, di realizzare la tua identità sessuale, no, no, no. Quello che conta è che tu sei bravo al lavoro, lì la tua identità si esaurisce. Ecco, e tutti ci seguono, tutti credono, perché nessuno gli propone una cosa diversa. Se no, quella sarà una realtà, ma non è la verità. È una realtà, l'uomo senza lavoro non può fare. Non esiste il paradiso terrestre, non esiste questo cristianesimo, ma non vedi che il Padre Eterno dà i vesti alle figli, eccetera, non è vero, è tutta una palla. Questo fondamentalismo verde, chiamiamolo così. È necessario il lavoro, però questo lavoro va gestito, va in base alla realtà umana, con questo miraggio della libera creatività. Il lavoro dell'artigiano che c'era nel 500, eccetera, poi dalle fa, un tavolo, fa 100 tavoli quando l'artigiano ne fa uno. Beh, chiaro. Professore, grazie tante, grazie del suo tempo. Ma grazie a voi. E delle sue considerazioni. E buona estate, buone vacanze e buon ozio anche.